si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati a tutti, il buongiorno del weekend di Radio 24, stiamo insieme oggi fino alle 10 e poi anche domani mattina naturalmente, 349-238-6666 se volete scriverci, dialogare con noi in tempo reale anche su WhatsApp, come sapete da un po' di tempo la novità su Radio 24. Poi i contatti, la pagina Facebook si può fare, trattino Radio 24, tra poco dopo il GR delle 8, dopo una rassegna stampa che ci accompagnerà fino al GR delle 8, cominceremo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie, faremo un punto su, insomma, vista di questa fine d'anno con Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, su i tagli che sono stati fatti quest'anno ai costi della politica. Ci sono alcune buone notizie di questi giorni, come per esempio il taglio, insomma, lo stop ai viaggi gratis per gli ex parlamentari. Ci sono stati in passato motivazioni per alcuni privilegi della politica, motivazioni che a volte erano anche nobili. Qua in questo caso non si capiva perché un ex parlamentare dovesse continuare a viaggiare gratis per l'Italia. Adesso questo fortunatamente non avviene più, ma ci sono anche notizie meno buone, come i rimborsi 10 milioni elettorali, 10 milioni di euro per i rimborsi elettorali di questa settimana, e non si capisce bene da dove siano saltati fuori. Bene, faremo il punto con Fraccaro, Movimento 5 Stelle, poi avremo Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente 2013, il nostro grande amico Rossano, da e su Parigi, sulla conferenza sul clima che va prolungandosi alla ricerca, come avete appena sentito anche nel reportage di Laura Bettini, di un accordo. Ma adesso vai, cominciamo con la rassegna stampa. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora cominciamo. Si parla molto naturalmente del salva banche, delle ultime novità diciamo possibili annunciate dal ministro dell'economia Padoan per venire incontro ai risparmiatori. Si parla del voto in Francia che ci sarà domani, e poi si parla della sentenza su Garlasco in Cassazione che dovrebbe arrivare oggi. Poi si parla naturalmente anche di Parigi, la conferenza sul clima, e di altro, di ISIS per esempio, con l'avanzata che preoccupa molto in Libia, a pochi passi dall'Italia. Cominciamo con il titolo sulla questione del salvabanche, Corriere della Sera: risparmio, il piano per i rimborsi, via libera dall'Unione Europea all'arbitrato, si deciderà però caso per caso. Renzi annuncia: riformeremo il sistema. Annunci che per la verità abbiamo sentito mille volte, non solo da lui ma da tanti altri presidenti del Consiglio, ministri in questi ultimi anni. No, come non si era detto mai più finanza tossica, no? Dopo la crisi del 2008 e del 2009, correremo ai ripari, mai più titoli che non si sa bene che margini di rischio abbiano, venduti come ai clienti delle banche e delle società di intermediazione finanziaria. E tutto questo è continuato a succedere tranquillamente come se niente fosse. Ma vediamo intanto il provvedimento di cui si parla, che sarebbe allo studio, l'ha detto ieri il ministro Padoan, è questo, un emendamento al disegno di legge di stabilità che sarà depositato nelle prossime ore, e prevederà la creazione di un fondo con il contributo delle banche, quindi saranno le banche, diciamo, in questo caso a intervenire, anche quelle che si sono comportate in maniera virtuosa, a salvare i risparmiatori delle banche che invece sono comportate male. La somma dovrebbe essere 100 milioni di euro, basterebbe a coprire quasi un terzo dei 340 milioni di euro di denaro persi ai 10.500 investitori coinvolti. La decisione avverrà caso per caso, dovrebbe prevedere il ricorso all'indice ISEE, il ricometro che servirà, insomma, ad identificare i casi socialmente più delicati. Poi si parla più in generale, diciamo, di una riforma, di una modifica delle regole del gioco, appunto per evitare che insomma, il rapporto tra i risparmiatori e le banche sia disastroso come è accaduto in questo caso. Quindi, diciamo, in tre passi sarebbe questa riforma che, secondo alcune indiscrezioni o anche mezzi annunci, ha allo studio il governo Renzi. Renzi. Una è quella che abbiamo appena detto, cioè l'emendamento per rimborsare i creditori, cioè i possessori di obbligazioni subordinate degli istituti coinvolti, Banca Etruria, Banca Marche, la Cassa di Risparmio di Ferrara e quella di Chieti. Poi secondo diciamo gamba di questa riforma, su tre, che ha tre gambe, un provvedimento, anche questo dovrebbe essere un decreto dopo Natale, per avviare la riforma delle banche di credito cooperativo, che seguendo la loro stessa proposta di autoriforma dovrebbero aggregarsi sotto una o più holding. E anche qui c'è da chiedersi se questo strumento di aggregazione di per sé sia una garanzia, forse sì, per i risparmiatori. Poi terza stampella, terza gamba, un provvedimento sulla cosiddetta bad bank, cioè i vincoli finanziari attraverso i quali, scrive il Corriere, liberare le banche dal peso delle sofferenze, cioè i crediti verso soggetti in stato di insolvenza, che ammontano oggi al 10% dei crediti totali dei finanziamenti concessi. 210 miliardi di euro sono prestati oggi dalle banche a crediti a soggetti che insolventi, cioè che non sono in grado più di restituire. E insomma è una patata, una bomba orologeria questa, che già, come capite bene, esplode ogni tanto, e in quest'ultimo caso ha coinvolto 105.000 risparmiatori. Andiamo subito sul Sole 24 Ore, restando su questo argomento, che oggi dedica il numero praticamente di oggi quasi tutto al salvabanche. Capite bene che per il Sole 24 Ore è una necessità fare un'operazione su questo di chiarezza, tanto che c'è un manifesto, lo hai sentito anche il commento del direttore napoletano all'interno del giornale radio, credo è andato in onda poco fa, Serietà, un manifesto in 5 punti su la manifesto per la tutela del risparmio. Per favore siate seri, scrive il Sole, si eviti ai risparmiatori il balletto delle responsabilità del giorno dopo. Il problema europeo, per ragioni di merito e di timing, andava affrontato prima in tutte le sedi appropriate, a partire da quella politica. Aggiungere benzina su un groviglio incandescente è l'esatto opposto di quello che serve. Non possiamo permettercelo, perché credito e fiducia sono materia delicata, misurano i giri del motore dell'economia. E questo manifesto punta su 5 aspetti. Primo, oltre la MiFID, la tutela potenziata per il risparmio, cioè prospetti anche semplificati che debbano indicare, esprimere un grado di rischiosità in sintesi da illustrare al risparmiatore, il quale il risparmiatore poi però deve anche un attimino svegliarsi, perché cioè voglio dire, per comprarsi lo smartphone si sta ore e ore dentro il negozio per sceglierlo eccetera, poi magari vai e dai affidi 10, 20, 30, 100 mila euro fidandoti del fatto che ci saranno interessi discreti, notevoli, ma da dove credete che possano arrivare questi interessi se non da manovre e da speculazioni che poi possono ritorcersi contro? Quindi leggete tutto, e se non siete in grado di capirci niente, non leggete e non affidate i vostri risparmi così alla leggera. Questo naturalmente è già stato detto, ma bisogna pur ricordarlo. Comunque le responsabilità istituzionali ci sono, e il manifesto del Sole 24 Ore in 5 punti prosegue giustamente indicando: 2. Separazione netta tra erogazione del credito e vendita dei prodotti. 3. Maggiore diversificazione del rischio di portafoglio e via andare. Insomma, trovate tutto sul Sole di oggi, con questo manifesto per la tutela del risparmio, le cose che andrebbero fatte e che speriamo che il governo faccia assolutamente, perché insomma che sia servita a qualcosa anche questa, l'esplosione di questo scandalo e i soldi persi dai risparmiatori, a meno che servano di lezione e che si intervenga una buona volta. L'altro tema che c'è, cioè Garlasco, dicevamo, oggi c'è attesa per la sentenza in Cassazione, con un colpo di scena che è arrivato ieri, il procuratore generale che ha chiesto di nuovo il processo, cioè l'accusa ha messo in dubbio la condanna a 16 anni di Alberto Stasi, è arrivata dopo due assoluzioni, perché ha detto l'impianto probatorio è stato travisato. Oggi arriverà la sentenza, leggiamo la cronaca. il colpo di scena che non ti aspetti alla voce del procuratore generale, mentre dice: non credo che con le ipotesi si possano fare i processi. Alle facce incredule degli avvocati mentre parla di travisamento degli elementi processuali. In aula in Cassazione cala un silenzio irreale e il procuratore, che di nome fa Oscar Cedrangolo, rincara la dose a ogni frase, un po' di più. Quando finisce di parlare, lo smarrimento in aula è tale che il presidente della corte gli chiede: scusi, non ho capito, ma quindi lei sta chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio, giusto? E il punto per il procuratore generale, che aveva chiesto appunto di rifare tutto il processo, è che non c'è il movente che avrebbe spinto Stasi ad uccidere la sua fidanzata Chiara Poggi nell'agosto del 2007, e questo unitamente all'assenza di prove, l'incertezza, scusate, sulle prove a carico di Stasi, è ciò che ha indotto il rappresentante dell'accusa a chiedere l'annullamento della sentenza di condanna e quindi un nuovo processo. Ci fermiamo per una pausa sul traffico, poi torniamo tra pochissimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... E allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 349-238-6666, poi ci trovate su Facebook, la pagina la conoscete, si può fare, trattino Radio 24, c'è anche l'account Twitter, chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora, ancora sul salvabanche, qualche punto di vista, diciamo, sugli altri giornali, però abbiamo letto tutto sommato la cronaca con gli annunci del ministro Padoan, l'emendamento che dovrebbe salvare circa un terzo dei risparmiatori coinvolti, selezionati in base, diciamo, al reddito, il manifesto del Sole 24 Ore in 5 punti, serietà, un manifesto per la tutela del risparmio. Le domande stiamo facendo tutti, no? Dove erano gli organi di vigilanza? Allora, Libero, per esempio, scrive: un sistema marcio, truffa delle banche, ecco le prove. La Popolare dell'Etruria, per esempio, concedeva mutui solo a chi sottoscriveva azioni, ed è una di quelle cose su cui puntava l'attenzione anche il Sole, non si deve fare. Ed emetteva i bond dopo essere stata esclusa dai crediti, ma Consob e Banca Italia non sono intervenute. A cosa servono? Domanda delle mille pistole, domandano un milione di dollari, insomma, vedetela un po' come volete. Il commento di Maurizio Belpietro. Poi, per dire, anche il Fatto Quotidiano c'ha un punto di vista che prende di mira in particolare la questione di famiglia. Boschi, il ministro Boschi: salvate il soldato Boschi, sempre più in difficoltà per il padre coinvolto nel crack aretino. E il commento di Roberto Saviano: conflitto di interessi, deve dimettersi. Lei tra l'altro salta la prima giornata della Leopolda, il raduno voluto da Renzi e dai renziani, che continua ad essere fatto anche se lui adesso è al governo, ma ieri Renzi c'era con qualche polemica all'interno del Partito Democratico, che sta facendo iniziative nei gazebo per il tesseramento, ma il segretario di questo partito è da un'altra parte con un'associazione di persone che non c'entrano direttamente nulla con il PD a fare dell'altro. Ma al di là della Leopolda, il tema della super ministra Boschi, per la prima volta scalfita, scrive il Fatto Quotidiano. Premier in difficoltà, timore di contestazioni in casa. Dallo scrittore di Gomorra, Saviano, veleno anche contro il quotidiano Repubblica. Quando è iniziata la paura di aprire un serio dibattito su questo governo, dice Saviano. Ma a proposito del papà della Boschi, c'è un approfondimento. Il latifondista di Arezzo, Pierluigi Boschi, siede in decine di CDA di aziende agricole. Storia del papà per bene, sanzionato da Banca Italia. Il cronista del Fatto l'ha provato a intervistarlo, Davide Vecchi, ma lui ha risposto al telefono: no, grazie, no, non voglio rispondere. Ma le domande, scrive il cronista del Fatto Quotidiano, a cui sarebbe utile rispondesse, sono quattro. Perché, dopo essere stato multato dalla Banca d'Italia come membro del CDA, ha accettato la nomina alla vicepresidenza? E ancora, nomina, tra l'altro arrivata poco dopo l'investitura, a ministro della figlia Maria Elena. L'ingresso nell'esecutivo, nel governo nazionale di sua figlia, è stato usato come elemento per favorire la sua ascesa? Ha mai parlato con la figlia, ministro, dei problemi della banca? E infine, quali rapporti ha avuto e ha la sua azienda, il Palagio, con la Banca Etruria? Ha avuto finanziamenti agevolati, aperture di credito? Insomma, queste sono le domande a cui il signor Boschi prima o poi dovrebbe, credo, rispondere. Se non altro, è una questione di dovuta trasparenza. Poi magari vai a scoprire che non c'è niente di male, a parte questa multa ricevuta, questa sanzione che aveva ricevuto, e poi dopo la nomina a vicepresidente. Questo è curioso di Banca Etruria, ma per il resto sono cose da chiarire. No, non c'è niente di male, sono domande a cui rispondere. Torniamo sulla Leopolda per un attimo, perché c'è l'intervista a Pierluigi Bersani, ex segretario del PD. Non vado alla festa di Renzi, col PD non c'entra. L'affondo di Bersani, dice Renzi, vuol costruire un partito centrista, ma del resto l'ha detto anche qualche giorno fa Dario Nardella, che ha rievocato il Partito della Nazione, ha stoppato le ipotesi di alleanza con la sinistra alle amministrative, alle elezioni a Roma, a Milano, a Torino. Insomma, ha detto la strada non è allearsi con Selma, è andare avanti sul Partito della Nazione. Bersani oggi replica e dice: io penso che se la strategia fosse quella di portare il PD in una generica e confusa posizione centrale, vorrebbe dire non aver capito nulla. Significherebbe non aver capito che in un indistinto centro il PD scomparirebbe. Bisogna invece tenere alti in questo momento bandiera e valori del centro-sinistra. Ma crede che Renzi sia d'accordo con quello che ha detto Nardella? Purtroppo non lo escludo, Bersani. Che poi, appunto, a proposito della Leopolda, se la Leopolda fosse una iniziativa del PD ci andrei, ma se si riunisce tutto quello che col PD non c'entra, io non ci sono. Che altro? Sulla Stampa, per esempio, invece c'è spazio per la foto delle rovine romane di Sabrata in Libia. L'ISIS avanza in Libia, a rischio le rovine di Sabrata, o Sabrata, non so come si pronunci, in un video minaccia all'Italia con un mandato ONU. Roma potrebbe rafforzare la missione navale. Di che si tratta? Un video, l'ultimo video dell'ISIS è un carro armato, un fotomontaggio che avanza in mezzo al deserto nella direzione del Colosseo. È l'ultimo video che minaccia ancora Roma. Stiamo arrivando. E, cioè, è anche la distanza a preoccupare: 450 km tra le coste della Libia e la Sicilia. Ieri che cosa è successo in Libia? Un blitz, una colonna di 30 fuoristrada con mitragliatrici e lanciarazzi, 300 uomini in tutto. Un blitz durato poche ore, l'ultima prova di forza dell'ISIS in Libia, a Sabrata per l'appunto. I combattenti, secondo alcune testimonianze, sono arrivati in mimetica nera, hanno organizzato un blitz che dopo che tre dei loro, dell'ISIS, erano stati arrestati dalle milizie locali la sera prima. Non c'è stata resistenza al loro arrivo. Dopo aver issato i vessilli, le bandiere nere, gli islamisti si sono riuniti con i leader tribali. I tre uomini arrestati sono stati rilasciati. Il contingente dell'ISIS per ora ha evitato l'occupazione della città, tenendo solo i luoghi strategici. Altri testimoni hanno parlato di minacce al sito archeologico, che si trova poco fuori la città e ospita alcune delle più belle rovine romane in Libia. E in effetti il tempio di Sabrata è detta la Palmira libica, è splendido, bellissimo, con il mare dietro. E questo è quello che accade in Libia. Ma dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarci. C'è il giornale radio, ci ritroviamo dopo con Si può fare, insieme a Carlo, naturalmente. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Cominciamo con il Movimento 5 Stelle, un bilancio su questo anno di tagli ai costi della politica. Si può fare, a dopo. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare, Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ben ritrovati a tutti, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Oggi Milano-Monterosa, come butta? Ma non si sa ancora, è quell'orario dove non si sa ancora se proprio verrà il sole. Nebbiolina. Non piove comunque, non piove, quindi potrebbe essere una bellissima giornata. Giorni e giorni di nebbia, aria sempre più irrespirabile, speriamo in un pioggione che porti via tutto perché c'è uno smog ormai. Ah sì, non sono stato quasi mai a Milano in questi giorni, quindi sei sempre in non giro, ho il polso. Carlo, sempre in giro. Però lunedì eri a Milano. Lunedì ero a Milano, è vero. Dovevi esserci per una occasione bella, importante. Molto bella, hanno dato... tema esatto, esterni i miei soci e ci hanno consegnato dalle mani del sindaco il famoso Ambrogino d'Oro. Ambrogino d'Oro per sono i milanesi, è un riconoscimento che ogni anno viene dato a diverse realtà della città che hanno migliorato la vita nei vari aspetti della città. Viene chiamato il Nobel di Milano. Il Nobel di Milano, voi quindi, gli esterni che fra l'altro fate quest'anno 20 anni, un compleanno importante. No, infatti è quello, perché in realtà l'Ambrogino d'Oro è stato consegnato al Milano Film Festival. Sì. Esterni, sì. Associazione, un festival diciamolo per i non milanesi molto importante, di una delle cose che anima di più la città, esatto, eccetera, eccetera. Esterni che fa tantissime iniziative in città, ma anche non solo a Milano, ormai anche in giro per l'Italia, forse per il mondo addirittura. Quindi... un po' sì, anche in giro, infatti è stato anche fuori Italia, è stato molto emozionante, devo dire, perché come ho raccontato brevissimamente sul mio Facebook, Esterni nasce perché ci siamo guardati in faccia 20 anni fa, appunto, sì. Anzi abbiamo iniziato anche 25 anni fa, eravamo dei ragazzini dicendo ma Milano, però Milano non va bene, forse bisogna andare via, bisogna andare all'estero, bisogna andarsene, sì, a questa città dove ci sono più possibilità. E poi ci siamo detti però un momento, prima decidiamo di fare delle cose qui a Milano noi e poi vediamo, magari Milano diventa più bella e capiamo che restare ne vale era la pena. Si può fare anche questo, esattamente, si può fare e vent'anni dopo anni il riconoscimento da parte del sindaco di tutta la città con l'Ambrogino d'Oro per il Milano Film Festival è stata un'emozione gigantesca e ci siamo detti vabbè, forse allora ne è valsa la pena. E anche perché avere una patria fa pure piacere. Allora, da un certo punto di vista, cari ascoltatori, vi aspettiamo con se ce l'avete le vostre buone notizie della settimana, 800 24 00 24. Anche oggi i racconti, insomma, più originali, più interessanti, avranno a disposizione un premio, due biglietti, il catalogo della mostra di Gauguin a Milano. Voglio dirvi una novità in arrivo che riguarda un tema che noi seguiamo sempre molto, che è quello delle slot e il gioco d'azzardo, perché il governo ha presentato un emendamento alla legge di stabilità, è in corso insomma di presentazione, di affinamento questa norma, quando ci sarà ne parleremo sicuramente. Come sempre c'è un doppio binario: da un lato aumenta il prelievo fiscale sul gioco d'azzardo, quindi lo Stato fa cassa sull'azzardo, diciamo fregandosene anche di tutti i problemi che ci sono intorno a questa questione, dall'altra però poi dice ok, però divieto di pubblicità in TV dalle 7 alle 22, quindi con una mano si cerca di rimuovere il problema, dall'altra però con una mano si prendono i soldi e con l'altra ci si lava la coscienza. Esatto. Vabbè, 800 24 00 24, argomento di discussione può essere anche questo. Giustissimo, no, come dici tu, perché ecco, è una discussione grande, perché in realtà se non ci fosse quello ci sarebbe un grosso problema economico, perché il gioco d'azzardo in realtà porta nelle casse importanti quantità di denaro. E poi insomma, tra poco invece affronteremo il tema dei tagli alla casta, insomma i costi della politica, perché vogliamo fare un piccolo bilancio, siamo quasi a fine anno, con un esponente del Movimento 5 Stelle, perché questa settimana, anche qualche giorno fa, ci sono notizie e le vedremo. Adesso che facciamo? Possiamo? Iniziamo? Dobbiamo. Cominciamo. Iniziamo. Vai. Via. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. abbiamo scelto Buon Viaggio di Cesare Cremonini, una hit, come si dice, del momento, perché era perfetta, perfetta per commentare che cosa? Beh, non potranno più far un buon viaggio, soprattutto gratis, gli ex buono deputati. Buono sì, ma non gratis. Ci mancherebbe altro, che glielo auguriamo, ma non pagato. Chi? Gli ex parlamentari, gli ex deputati. È notizia di qualche giorno fa, che andiamo a recuperare oggi di sabato con Riccardo Fraccaro, segretario dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, esponente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno. Noi benissimo. Lei tutto bene? Sì. Tutto bene. Perfetto, di sabato mattina a lavoro. No, perché poi c'è il tema anche delle vacanze. Quando cominciano le vacanze del Parlamento? Sempre si dice che lavorate troppo poco. Si dice così, non lo sappiamo, dipenderà ancora dai decreti che arriveranno all'ultimo minuto. Comunque ancora adesso siete in funzione, sì. Sì, perché c'è tutta la legge di stabilità, quindi il bilancio dello Stato, dove vanno i nostri soldi, si deciderà questa settimana, sì, dal lunedì. Poi voi del Movimento 5 Stelle siete sempre lì, anzi siete tra quelli che pungolano il Parlamento a lavorare, figuriamoci. Però questa settimana, prima di commentare la notizia, diciamo la buona notizia, no? Stop ai viaggi gratis per gli ex deputati, sì. Questa settimana invece è sfuggito un po', voi vi siete infuriati, un nuovo finanziamento ai partiti, 10 milioni di euro. Sono di più in realtà, sono 21, i giornali hanno parlato di 10 e adesso arriverà, e questo è solo una tranche pagata dalla Camera, adesso arriverà anche una tranche pagata dal Senato. Qual è l'elemento che ci ha fatto arrabbiare più del solito? Perché già il finanziamento pubblico ai partiti dopo il referendum, ricorderete, del 93 è stato dovrebbe essere stato abrogato, così sì. Ci risulta. Esatto. In realtà quest'anno viene dato ai partiti senza nemmeno più il controllo dei conti, del bilanci, perché è stato abrogato con effetto retroattivo. Quindi è come, non so, se un'impresa dovesse pagare le tasse, in realtà dovesse magari prendere degli incentivi, sì, sulla base del proprio bilancio, sapendo che nessuno potrà mai controllare quel bilancio, e quindi su una base di un'autodichiarazione. Io credo che tutti gli italiani avrebbero piacere di avere una simile agevolazione. E in più, sì, siccome durante l'ufficio di presidenza abbiamo fatto un po' di battaglia, abbiamo chiesto agli uffici, ma i partiti dal momento della deliberazione in quanto tempo prenderanno questi soldi? E ci hanno detto in 48 ore. Alla faccia! E allora lì ci siamo arrabbiati ancora di più, perché abbiamo di fronte centinaia di aziende che non prendono da mesi, anni, soldi che spettano dallo Stato. Sì, e questi in 48 ore, beh, è un record di efficienza straordinario. L'efficienza della Camera. Senta, Fraccaro, ma la questione dei bilanci è sempre quella di quella commissione che avrebbe dovuto valutare i bilanci dei partiti, ma che non lo ha mai fatto perché non si è... Perché non ha personale a sufficienza, dicono, per poter controllare tutti i bilanci? È quella la storia? Quella. È successo questo, la commissione, la legge che hanno fatto prevedeva il controllo da parte di una commissione composta da alti magistrati dello Stato. Però si sono dimenticati di dargli delle strumentazioni, del personale per farlo, perché ovviamente i bilanci sono tanti e il tempo è poco. Erano troppo alti, volavano talmente alto che non stavano lì seduti al tavolo, diciamo. Senza strumentazione, senza personale non riusciamo a farlo, e sì, quindi hanno colto la palla al balzo e detto va bene, allora non lo facciamo, risolto il problema. Invece che risolvere il problema dicendo adesso troviamo il modo per farlo, ho detto perfetto, allora non lo facciamo. E certo, perfetto. Si sono fatti la legge, non funzionava, hanno evitato di fare i controlli. Senta, ma invece sulla questione questa sì che siete riusciti, diciamo, insieme ad altri, tra l'altro c'è anche stata una... quelli di SEL, di Sinistra Italiana, adesso dicono che sono stati loro i primi a portare questa cosa sullo stop ai viaggi gratis per gli ex deputati, però magari questa polemicuccia la vediamo dopo, cioè polemicuccia, insomma, un derby, no? Tra chi si è impegnato di più nella lotta alla casta. Nei tagli alla casta. Ma i privilegi dei parlamentari spesso avevano una motivazione, no? In passato, anche nobili. Ma il viaggio gratis per l'ex deputato, che motivazioni poteva avere in passato? È la stessa cosa che volevo chiedere io. Ho fregato la domanda, Carlo. Ma in passato non lo so, non ero in ufficio di presidenza, quindi non ho avuto modo di ascoltare le motivazioni. Ho ascoltato le motivazioni in questa legislatura, alcuni esponenti, tra cui anche SEL, che sì, effettivamente ha chiesto una riduzione, ma ha chiesto una riduzione, non l'eliminazione, a cui noi abbiamo votato contro, perché effettivamente pagare i viaggi agli ex parlamentari per noi è un privilegio, non è un servizio che si può ridurre, dobbiamo toglierlo. Eh no, ma infatti la cosa da capire è qual è il principio, cioè qual è il principio che sta dietro alla norma, per, nel senso che giustamente da un lato uno può dire niente, il principio è semplicemente che voglio spendere di meno, però ci chiediamo che probabilmente c'è un principio per cui uno che è stato parlamentare per tutta la vita ha i viaggi rimborsati, per quale per motivo? Sì, per loro il motivo è quello di rendere possibile, consentire all'ex parlamentare di fare ancora attività politica sul territorio e quindi per farlo deve spostarsi e quindi dobbiamo dargli... Ma se non è stato rieletto ci sarà un motivo? Esatto, era questo che mi chiedevo, nel senso che non è stato rieletto forse non deve fare attività politica, nel senso che la cittadinanza non glielo chiede. Sì. Sì, o lo può fare a spese sue. Esatto. Questo era il concetto. Fatto sta che noi abbiamo chiamato questa operazione Casta Crociera. Perché? Casta Crociera? Sì, perché. Ma si fa un hashtag, diciamo, questo è un po' il gusto dell'hashtag, non tanto della politica. Il gusto del momento, sì. Esatto. Ma perché noi ci siamo resi conto semplicemente di questo, che quando noi facciamo delle battaglie sui costi della politica, otteniamo dei risultati solo se l'opinione pubblica si mobilita, si indigna. Noi abbiamo bisogno di titoli, di slogan per poter arrivare facilmente. E questo è stato il nostro slogan di questa battaglia che è durata 2 anni, mi ricordo. Però posso chiedere una cosa, nel senso che giustamente lei l'ha detto molto preciso, noi possiamo fare una battaglia se l'opinione pubblica si indigna, però a volte non sembra che il tutto parta dall'altra parte, ovvero troviamo qualcosa per cui l'opinione pubblica si indigna e su una spesa di viaggi che mi sembra di aver letto che è di 35 milioni l'anno si riesce a eliminare questi 900 mila euro, che sono un po' meno del 3%, quindi che è forse anche un po' una battaglia strumentale. O sbaglio? Ognuno può vederla come vuole. Io quando sono entrato alla Camera insieme ai miei colleghi Luigi e Claudia Mannino e Luigi Di Maio abbiamo deciso di lavorare guardando il bilancio, cioè, ogni voce del bilancio l'abbiamo analizzata, abbiamo detto questa serve, questa non serve, questo è uno spreco, questo non è uno spreco, questo abbiamo... mi sembra molto sano. Abbiamo battagliato su ogni punto, ovviamente ce ne sono alcuni più clamorosi che fanno più notizie, ma noi abbiamo cercato di farlo dappertutto. Per esempio pochi sanno che i vitalizi, cioè quegli stipendi, quella pensione non maturata realmente dagli ex parlamentari che comunque percepiscono, in realtà non è stata eliminata del tutto. I parlamentari attualmente in carica andranno in pensione a 65 anni, non a 67, e attualmente se riusciranno a fare 2 legislature a 60 anni. Quindi il problema dei vitalizi non è stato eliminato, ma nessuno lo dice. C'è ancora. Poi c'è il tema anche a livello regionale, che ci sono delle leggi, però varranno per i prossimi consigli, poi ci sarà sempre qualcuno che farà ricorso e quindi bisogna sempre vigilare su questo, il tema del vitalizio che è sicuramente uno scandalo che doveva finire. Senta, però le voglio chiedere una cosa, perché abbiamo detto che con SEL, adesso Sinistra Italiana, c'è stata un po' questa disputa su chi doveva intestarsi questa misura, diciamo, di lotta alla casta, ma chi si impegna di più tra la destra e la sinistra, oltre voi, secondo lei, Fraccaro, in questa lotta alla casta, insomma, cioè siete solo voi? Secondo oppure... me non c'è nessun altro che si sta impegnando alla lotta alla casta, dal mio punto di vista. Solo voi del Movimento 5 Stelle? C'è qualcuno che è qualche forza politica che su alcuni temi ci dà una mano, ci viene dietro o ci vota a favore. Sì, per esempio anche nelle giunte regionali, no? Le varie giunte regionali, insomma, il Veneto che è leghista, la Toscana, il di centrosinistra, e sono state fatte, no, delle leggi anche appunto sui vitalizi, eccetera, eccetera. C'è qualcuna che... La mia impressione è anche che queste leggi siano state fatte sull'onda della crescita del Movimento 5 Stelle. Sono venuti dietro a voi, questo è vero. Beh, sicuramente voi avete una funzione. Avete sicuramente una funzione di pungolo da questo punto di vista, perché siccome ci siete voi e siccome le proponete voi, a volte gli viene voglia di proporla anche a loro, e molte volte magari sono dei singoli degli altri partiti che vi seguono, invece voi ce l'avete un po' come missione del movimento. Sì, credo che molte occasioni sia successo questo e stia accadendo questo. Mi sembra che anche chi magari non apprezza il Movimento 5 Stelle in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue proposte, non possano riconoscere che comunque una funzione l'abbiamo avuta e la stiamo avendo importante nella politica italiana. Ma tornando al tema destra e sinistra, vi fanno ancora la corte un po' quelli, insomma, la sinistra del Partito Democratico, Sel, Civati, che erano sempre lì che vi volevano un po' irretire in qualche alleanza, o è tramontata completamente quello scenario lì? No, è tramontata completamente, secondo perché me a voi non interessa. Hanno messo la pietra sopra questa possibilità. Basta, anche perché poi adesso ci sono le elezioni e il Movimento 5 Stelle alle comunali deve andare con un suo candidato, perché vuole anche misurarsi giustamente e chissà che anche in grosse città, per non dire nomi, Roma, ci possa essere una sorpresa. Fraccaro, grazie per essere stato con noi, buon sabato. Grazie mille. Arrivederci, grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Beh, insomma, volevamo fare un po' il punto su questi tagli che ci sono stati questi ultimi giorni. Avete sentito intanto stop ai viaggi gratis per gli ex deputati, e in effetti non si riusciva a capire qual era la ratio. No, ma che è vero, non è che costasse molto, 900.000 euro, però non era la solita cosa di rama, perché così poco va benissimo, nel senso che si inizia dal poco. Era semplicemente che mi incuriosiva il meccanismo, e mi incuriosiva nel senso che penso che ci sia una reale motivazione per pagare i viaggi, che non sia semplicemente una questione del privilegio, questo per non pagarli più a questo punto. E rimane una spesa di 35 milioni di euro per i parlamentari in carica. Cavolo, viaggiano però, parecchio viaggiano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Allora, caro Carlo, abbiamo parlato con Fraccaro poco fa, anche un accenno alle elezioni comunali che ci saranno nella prima del 2016. Sai che c'è un signore in Ucraina, a Odessa, che si è candidato alle elezioni comunali di questa città e ha cambiato nome per l'occasione. Ha preso il nome di Darth Mikhailovich Fader e si è vestito da Darth Vader, di Star Wars. Certo. È andato in giro per tutta la campagna elettorale vestito così. Deve essere molto facile cambiarsi nome lì da loro, perché da me non credo che tu proprio prima delle elezioni puoi dire scusate, volevo cambiare nome, io mi chiamo Silvio Berlusconi. Io. È stato abilissimo questo signore, però non è riuscito poi a vincere le elezioni, non ha preso molti voti, ma adesso continua ad andare in giro per la città vestito da Darth Vader. È diventato un personaggio incredibile. Non sta benissimo forse. No, forse non sta, può darsi, ma insomma di gente strana ne abbiamo vista circolare parecchia. E vi chiediamo, cari ascoltatori, se voi dovreste dare un suggerimento per un candidato cinematografico per le prossime elezioni comunali, che so, a Milano, a Roma o a Torino, che suggerimento dareste? No? Può essere un modo anche per rispolverare vecchi film o per dare qualche suggerimento per la campagna elettorale, che so, l'uomo ragno potrebbe essere, no? Visto che il sindaco poi è uno che deve sapersi destreggiare, giusto, arrampicarsi un po' sui palazzi, soprattutto sulla brutta edilizia, l'abbiamo detto. Oppure Harry Potter, perché la magia coi bilanci è sempre dietro l'angolo, giusto. Oppure E.T., penso che per Milano E.T. per esempio potrebbe essere un film troppo vecchio. Perché dici E.T.? Beh, così un extraterrestre, qualcuno che venga da altrove e non sia troppo interno. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se avete un suggerimento per un candidato cinematografico alle prossime elezioni comunali, chiamateci. Il racconto più originale, come sempre, porta a casa i biglietti e il catalogo per la mostra di Gauguin al MUDEC di Milano. Abbiamo già un ascoltatore in linea oggi, direi che si chiama Leonardo e chiama da Pisa. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa vuole intervenire, Leonardo? Volevo intervenire in merito alla legge di stabilità. Sì. Io sono un operatore del settore degli apparecchi da intrattenimento, quelle famiglie. Le slot, sì. Volevo solo che fosse, diciamo, di dominio pubblico come stanno realmente le cose, perché noi siamo un po' le vittime di tutta la situazione a cui partecipiamo in una maniera proprio minore. Noi facciamo parte del vizio del gioco, perché siamo il vizio del gioco, in quanto le nostre macchine non sono quelle macchine che possono far vincere 5.000 euro per cui risolvere il problema di un mese a chi ci gioca. Possono vincere 100 euro come vincita massima di giocata. Sì. E quello che magari i legislatori e i parlamentari non si rendono conto è che ci sono due macchine diverse che si possono anche chiamare nel solito nome, ma che sono completamente diverse, le VLT e le slot machine. La differenza sta che 60.000 macchine di VLT incassano quanto 410.000 macchine di AVP, cioè di quelle che sono nei bar. Per cui devo criminalizzare un qualcosa, occorre forse tenere conto. Le VLT sono le videolottery. Esatto, intendo. Perfetto. Sono sì. queste. Per cui ci sono due distinzioni veramente perfette. Ora poi abbiamo visto che nelle disabilità inseriranno un qualcosa come un 4,5% in più di preo da dare allo Stato, sì, sì. di prelievo, e questo porterà sicuramente il settore alla rovina completa. A vantaggio di che cosa? Di quelli che sono i giochi diversi di cui non se ne parla. Illegali, i giochi illegali vuol dire, questo è uno spauracchio. Però Leonardo, scusi, io capisco che, cioè, chi ci lavora, però è un po' come dire uno che spaccia droga e dice ma io perdo il lavoro, no? Se decidiamo che il gioco, come ha detto anche gli stessi operatori, quelli che stanno sopra di lei, quelli che gestiscono un po' la filiera, ci sono troppe, c'è stata un'esagerazione, una proliferazione di slot, bisogna diminuire. E in qualche modo dovremmo farci una ragione. Spiace per chi come lei ci lavora su questo, però no, voglio dire, ci lavora 20.000 persone, sì. soltanto diretti, più altri 80.000 persone sono nei vari bar che ci sono. Ma mi domando, ridurre il numero delle macchine è una cosa che sicuramente è stata presa in esempio, tant'è vero sono già state ritirate dal mercato oltre 100.000 macchine, sono dati del Monopoli, si fa presto anche a controllarli. 100.000 macchine sono già rientrate, se c'è da ritirare dell'altro, ritiriamo dell'altro. Ma vuol dire, il fatto stesso di togliere, di criminalizzare un settore che è il gioco, voglio dire, dove si può vincere. Però no, criminalizzare non lo criminalizza nessuno, Leonardo. Tutti. Noi che facciamo una campagna su questo perché ci interessa. Beh, no, però... è vero che c'è anche della criminalizzazione, è vero. Ma sì, ognuno la pensa come crede. Il governo in questo caso non sta criminalizzando, vuole vietare la pubblicità in televisione dell'azzardo e aumentare il prelievo. Questa, diciamo, è la posizione secondo me un po' schizofrenica, però non c'è una criminalizzazione, c'è un'idea di regolamentare un fenomeno che negli ultimi anni, sarà d'accordo, è esploso, cioè ci sono più videolottery. Infatti la cosa che vorrei capire è questa, cioè, io personalmente non sono particolarmente contrario alle slot così di per sé. Quello che mi chiedo e quello che lei sta dicendo è che con questo aumento del prelievo fiscale del 4,5%, un certo tipo di macchine soffrirà molto di più di altre macchinette che sono invece più dannose, ho capito bene? Chiuderanno determinate aziende che non ce la faranno a sopportare questo 4,5% di prelievo in più, perché l'utile che può rimanere fra il barista e l'esercente, tra il barista e il gestore, discende totalmente a un 3,5%. Pertanto non è possibile gestire questo lavoro con queste cose. Va bene, Leonardo, grazie mille per averci chiamato e per aver puntualizzato anche questi aspetti. Lo sappiamo, quando tocchiamo questo argomento gli operatori che sono coinvolti si scaldano, giustamente. Beh, quindi, anche perché se lo paragoni giustamente allo spaccio, quello è quello la criminalizzazione. Ho fatto un esempio per dire che un settore come la vendita di sigarette, no? Si decide che una cosa va limitata o regolamentata. Non è che il fatto che ci sia qualcuno che ci lavora non impedisce la regolamentazione, se no dovremmo consentire tutto e non regolamentare mai nulla. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore.

Hot and Cold di Katy Perry per insomma, introdurre la conferenza sul clima di Parigi, che doveva già essere finita. COP21, e invece sono sempre lì. Rossano Ercolini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carissimo Rossano, rientrato, anche perché appunto doveva già essere finita la conferenza, rientrato da Parigi, dove sei stato anche tu a, diciamo, a dare una mano a questo dibattito. Adesso siamo proprio agli sgoccioli, sembra che ci sia questo accordo. Come ti sembra che China sta prendendo questo accordo di Parigi, Rossano? Ma io sono pessimista, pessimista, perché il problema vero è sulla obbligatorietà dei controlli. Quindi l'accordo che si sta profilando è un accordo volontario, che parte da un documento sulla carta anche interessante e innovativo, però molti paesi vogliono rifiutare i controlli periodici. I controlli su cosa, per esempio, Rossano? Facciamo qualche esempio. I controlli per rispettare che ogni paese faccia la propria parte come previsto nel protocollo. E quindi l'alternativa è che esisterebbe un documento, magari che potrebbe essere anche condivisibile in larghe linee, ma che poi ognuno rispetta per quanto gli serve, per solo a parole. Beh, senza, solo a parole, senza controlli effettivamente è un, po', vale. È un po' inutile, non so come dire, è un po' come dire facciamo questa promessa, solo che siamo un po' più dobbiamo essere un po' più avanti. Questo è il pericolo, sì, che sia un controllo, quello che circolava è che sia un controllo unicamente volontario. Ora le ultime liste che ho anch'io, ma insomma confermano quelle che compaiono sulle agenzie, che oggi pomeriggio, quindi nei tempi supplementari, si tenterà un'ultima mediazione. Ci sono i paesi, le piccole isole che rischiano l'annullamento, la sparizione, che si sono fatti organizzati proprio in un polo, e la novità effettiva, ovviamente la loro forza politica è piccola, soprattutto perché la resistenza maggiore non è vero che viene dalla Cina, anche dalla Cina, viene soprattutto dall'Arabia Saudita, dai paesi produttori. Dal Venezuela forse anche, che paesi che hanno in mano il petrolio. I sauditi dicono che è un'invenzione dell'Occidente, il riscaldamento globale, quindi insomma ci dà, che è un'invenzione dell'Occidente, dicono? È un'invenzione dell'Occidente, questo è quello che dicono in modo estremamente palese. Dovremmo riflettere anche sullo scacchiere delle alleanze geopolitiche, quando appunto certi paesi vengono schierati automaticamente dalla parte dell'Occidente. In realtà è molto, molto bizantino. Sono dei simpaticoni questi sauditi, Sì, molto simpaticoni. Sì, io con me, insomma, è stato premiato nel 2013 un ingegnere iracheno, il quale aveva avuto in previsione della conferenza, degli incontri con la delegazione saudita. Sì. Hanno delle posizioni, non solo i sauditi, ma tutti gli Emirati del Golfo, delle posizioni che a definire oltranziste sul piano ambientale è dir poco. Ma la questione però dei controlli e dei pagamenti delle multe, nel senso dei pagamenti delle multe, mi sembrava invece che si fosse raggiunto l'accordo per cui ci fosse però lì poi c'è il balletto delle cifre, e quindi il messaggio che si stava configurando era della serie: andate avanti voi, i paesi più spinti, questi anche l'Europa, poi in realtà nell'Europa ci sono molte crepe, andate avanti voi e noi vi veniamo dietro. Però che è un po' la solita storia, però no, perché da un po' insomma poi in realtà nei comportamenti umani non è che cambia molto, insomma ci sono gli opportunisti che traggono vantaggio da questa situazione e ci sono i disperati come questi rappresentanti delle isole, delle piccole isole, che hanno percepito il pericolo effettivamente, che tirano la corda dall'altra parte. Perché noi, Rossano, questi rappresentanti delle piccole isole che tu dici, cioè per loro cosa c'è in ballo? La possibilità di avere dei finanziamenti per contrastare questo fenomeno? Ma cioè... no, la contrattazione è tutto con la Cina, anche con la Russia, con i grandi paesi produttori, con l'India, che minacciano naturalmente. Noi vogliamo più soldi per riconvertire l'ecologia, altrimenti noi non possiamo rinunciare al carbone. Ma per il salto tecnologico, il cosiddetto salto tecnologico. Sì, insomma, anche giusto, nel senso sì. Effettivamente non possono essere condannati al cosiddetto sottosviluppo e chiedono, ovviamente lo fanno ognuno anche tirando, no, sindacalmente la corda dal proprio canto. E diciamo che la novità di questi paesi, delle piccole isole, è che loro sono comunque dovunque schierati perché un accordo nel senso indicato dagli scienziati venga messo in atto, perché loro si stanno giocando letteralmente la sparizione dalla faccia del pianeta. Quindi c'è un po' il messaggio dell'umanità più profonda che percepisce il pericolo imminente che si sta pesando. Si parla di 2050, al massimo la fine del secolo, del 2000. Ma è la prima volta che ti sento così, così pessimista, o sbaglio? Da te non ce l'aspettiamo, sei sempre uno che ci dà la carica. Beh, purtroppo le notizie che arrivano sono queste. Ora, bisogna essere realisti. Rossano, resta con noi perché continuiamo a parlarne ancora qualche minuto, se ti rubiamo ancora qualche minuto di tempo, dopo il traffico, che dobbiamo fare informazioni sul traffico, cercheremo insomma di capire un po', perché a un certo punto sembrava quasi che questo accordo, così come diceva Rossano, salomonico, no? Per cui quasi si alzavano gli obiettivi da raggiungere, non più 2 gradi in meno di temperatura, ma addirittura sì 2,5 gradi, tanto poi, come diceva Ercolini, non controlliamo, i controlli non sono obbligatori ma si aderisce volontariamente, quindi chiaramente si alzano gli obiettivi ma allo stesso tempo si abbassa la possibilità che vengano centrati concretamente. Però abbiamo anche qualche risposta al nostro gioco sul candidato cinematografico per le prossime elezioni. E allora, per esempio, abbiamo su WhatsApp al 342-38-6666 Matteo che ci dà Harvey Milk per Milano, personaggio reale ma anche dell'omonimo film. Film bellissimo sull'attivista per i diritti degli omosessuali, un film bellissimo. Un capolavoro. Interpretato da, non ricordo, grandissimo attore. Poi per Sean Penn, bravo. Per Roma, Bernadette Bassinger di Priscilla, la regina del deserto, film che non ho visto. Per Torino, Antonio Benitez, Banderas di La legge del desiderio. Però ci dovete chiamare all'800 24 00 24 per darci la risposta, anzi la risposta, la vostra proposta diretta. C'è anche chi ci propone Nerone come personaggio, che mi sembra interessante, penso, per Roma provocatoria, e anche Rambo e Terminator sempre, e Demolition Man sempre per Roma. Mi sa che abbiamo Graziella in linea dalla provincia di Grosseto. Graziella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Proprio per proporre un candidato cinematografico, chi è? È Zorro. Zorro. Fantastico. È Zorro che ruba i ricchi per dare ai poveri. Ma non era Robin Hood quello? No, anche Zorro. Anche Zorro. E poi anche perché risiede nel palazzo insieme a loro, quindi può tranquillamente sapere tutto e smascherarli tranquillamente. E poi posso dire un'altra cosa? Certo. Che è tanto bello Bandera secondo fa Zorro. Allora la questione è diversa, ma ma Zorro ce l'ha in mente per una città nello specifico oppure va bene per tutte? Io farei per tutta l'Italia, che tutta ce n'è l'Italia. Tanto bisogno, tanto. Presidente del Consiglio. Già mi immagino una campagna elettorale, uno magari con la faccia belloccia, anche se poi Zorro è coperto, che si veste da Zorro come ha fatto Darth Vader in Odessa in Ucraina, e magari prova a vincere le elezioni e magari ci riesce pure. Immagini? Molto Movimento 5 Stelle. Un po'. Traffico. Stufe, caldaie termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a Rossano Ercolini, con il quale insomma stiamo cercando di interpretare quello che sta accadendo a Parigi, le ultime mosse, il sgoccio insomma della conferenza sul clima di Parigi. Rossano, una delle questioni è questa della lista dei paesi in via di sviluppo che avranno insomma la deroga, per così dire, di continuare a inquinare un po' di più proprio perché devono completare il percorso di industrializzazione. Questa lista è in discussione ancora? Ma io non conosco in dettaglio che cosa, in realtà la discussione sembra frenetica, quindi probabilmente rispetto ai paesi cosiddetti in via di sviluppo tutto ruota intorno a quanto i paesi diciamo sviluppati sono disposti a mettere sul piatto della bilancia. A pagare. Ecco, si è parlato di 100 miliardi. Si parla di 100 miliardi, sì. Ma in ballo ci sono anche le modalità, quindi sono tutti dettagli che hanno un'importanza rilevantissima, ma che sono per noi apparentemente delle virgole, che però nella trattativa sono delle macigne. L'altra cosa è anche il tempo, no? Per quanto tempo questi paesi si possono prendere il tempo appunto di continuare ad inquinare? Anche qui si è parlato di un tempo molto lungo, cioè sembrava quasi che insomma. Sì, e qui diventa la falsariga è quella indicata dal mondo scientifico, poi viene annacquata dalla politica. Tuttavia il documento di fondo è un documento, dicevamo, interessante, comunque un documento avanzato. Il problema vero è se poi non ci sono i controlli, anche la tempistica, la Cina dice tutto, noi non vogliamo vago, nessun sì. controllo al 2023. Quindi insomma, puoi avere l'accordo più bello del mondo, ma se nessuno controlla è la solita cosa per cui dai piccoli consigli comunali parte un documento, vogliamo il mondo pulito e pacificato, però poi nella pratica il giorno dopo si fa l'inverso. Ora non voglio recidere qualsiasi speranza, perché tra l'altro c'era una marea di gente coloratissima, da persone con i capelli rossi e la pelle nera ai bianchissimi della Norvegia, quindi una sì. bellissima diciamo, secondo me la differenza davvero la possono fare le opinioni pubbliche di tutto il pianeta e quello che si è mosso intorno al COP21 dalla società civile è davvero tanto. Spero anch'io che nell'ultimo tuffo prevalga diciamo, però anche l'ottimismo di Ban Ki-moon, del ministro Laurent Fabius francese, sì, ministro degli esteri. In realtà sembra contraddetto e sembra che loro stessi stiano un pochino tesi in questo momento. Senti, ma gli Stati Uniti, no, l'America, che tra l'altro sono quelli che hanno sollevato, per dirne una, lo scandalo del Dieselgate nato in America, però che negli anni anche loro sono stati un po' imputati, che non volevano controlli, che non volevano aderire a questo tipo di accordi, così come ad altri accordi internazionali. Gli Stati Uniti sono sempre un po' refrattari, adesso forse sono un po' meno sul banco degli imputati a questa conferenza del clima di Parigi, o no, Rossano? No, formalmente Obama ci è andato in modo credibile, probabilmente la sua figura è una figura credibile, però il problema, quello che naturalmente qui ci vuole un diplomatico di lunga lena, io avanzo delle opinioni da attivista, quindi certo. Per carità, il problema è che poi dietro le quinte, come avviene nella politica internazionale, si può dire una cosa e farne un'altra. È chiaro, quando io alludevo alle alleanze spurie dell'Occidente, quando negli Stati Uniti tutti sanno che sono le multinazionali, in particolar modo del petrolio e della chimica, che guidano la politica internazionale, l'alleanza con i sauditi qualcosa può significare che magari di fronte le dichiarazioni sono ruggenti, sono convincenti, ma dietro le quinte poi in realtà prevalgono i realismi e gli interessi di bottega, anche se le botteghe sono di grandissima importanza e rilevanza. Quindi gli Stati Uniti all'inizio si sono presentati con un attivismo che stava convincendo buona parte delle associazioni. Ci sono moltissimi attivisti americani degli Stati Uniti che sono su a Parigi, quindi moltissime associazioni influenti, le fondazioni. Il fenomeno delle fondazioni ambientaliste è un fenomeno in crescita, soprattutto negli Stati Uniti. Però poi è da loro stesse che viene fuori un certo scetticismo, proprio per l'ambiguità del legame che c'è con i paesi produttori di petrolio. Ribadisco che sentirti pessimista mi preoccupa moltissimo. No, sì, no, sì, invece sì. Ho vissuto, è stato bellissimo per i nostri incontri, rifiuti zero, è qualcosa che sta specialmente l'esperienza italiana. Io mi sono sentito coccolato perché noi portiamo delle eccellenze. E ecco, non demordere, non demordere. No, io non demordo, voglio però, ecco, diciamo così, anche in modo scaramantico dare ai vostri ascoltatori, a voi operatori dell'informazione, diciamo così, ecco, il contesto dentro il quale noi dobbiamo operare. Lo possiamo cambiare, come dite voi. Si può fare, ecco. Grazie Rossano, grazie mille. Un abbraccio, ciao, un abbraccio. Auguri a tutti. Ciao. E tra l'altro oggi siamo stati due volte a Capannori, perché abbiamo parlato prima col sindaco per il BlaBlaCar, degli assessori del sindaco, adesso con Rossano Ercolini, ricordiamolo, maestro, perché lui nella vita è questo, è un maestro elementare. 20 anni fa ha iniziato le sue battaglie contro l'incenerimento dei rifiuti e per arrivare a rifiuti zero, adesso è presidente, ha un ruolo insomma nella rete rifiuti zero anche in Europa, è stato invitato a Parigi a parlare a COP21 e nel 2013 ha avuto il cosiddetto premio Nobel per l'ambiente, l'Environmental Global Prize. Ha ben seminato, perché a Capannori è sempre bello poi sentire, sì, anche Capannori, anche Capannori, ma poi, non per Ercolini ma per altre cose, ha ben seminato a livello di cittadinanza. Una cosa straordinaria è che quando lui e i suoi, cioè gli attivisti che erano con lui 20 o 30 anni fa cominciarono a parlare di rifiuti zero, sembravano dei sognatori, dei matti fuori dal mondo. Adesso è la strategia, la norma dominante, esatto. Quindi quello che ci sta dicendo sul clima, immagino che sia la stessa cosa anche su quello. Certo, è che lui è un grandissimo motivatore, quindi sentirlo pessimista è sempre che dici ma no, sì, non è possibile, sì, insomma, se molla al colpo lui siamo rovinati. Bisogna essere lucidi, lui in questo momento lo è con un tocco di pessimismo. Allora, abbiamo Ruggero che ci chiama da Padova, lo sentiamo subito. Ci sono un po' di risposte al gioco anche all'SMS, per esempio Ulisse suggerisce Gordon Gekko del film Wall Street, con Michael Douglas, però era un personaggio simbolo della verità, no? cattivissimo. Mi ricordo la battuta che lui chiama alle 6 del mattino e dice ciao, sono la tua sveglia, io ho già fatto $1 milioni e tu? Chiama il suo nuovo assistente. Abbiamo Ruggero che ci chiama da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Cosa allora, io propongo, sì, Don Corleone di Mario Puzo del film Il Padrino come sindaco di Roma. Oh, adesso ce lo deve spiegare. Sì. Ah, mafia capitale è assolutamente allineato. Cioè, certo, l'uomo giusto al posto giusto. Mi sembra giusto, il massimo al massimo. Sì. Ma noi vogliamo risolvere, ma riusciamo a dirlo problemi con un po' di ironia o dobbiamo dirlo con quest'aria triste? Certo che c'è ironia, ma lui, sì, risolverebbe tutti i problemi. Tipo? Prego? Tipo? Come? In che modo? Allineerebbe tutto quanto sotto l'egida della mafia capitale, non ci sarebbe più trasgressione. Vietato trasgredire. Beh, non è una soluzione auspicabile. Io capisco l'ironia, insomma, però se vogliamo essere ironici dobbiamo anche... Cioè lei dice, siccome la mafia in questo momento c'è a Roma, già che c'è, è meglio che ci sia proprio fino in fondo. Massimo, no? Ma io speravo che lei dicesse utilizzare i metodi Don Corleone per fare pulizia, per debellare mafia capitale. Questo ci potrebbe anche stare, a patto di individuare. Comunque, non approviamo i metodi di Don Corleone, no, ma... Però se servissero, si candida a pulire la città. Va bene. Abbiamo avuto anche Ruggero con un tocco anche qui di come dire, di pessimismo. Di ironia, secondo me non molto riuscita. Di disincanto. Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Il mio personaggio cinematografico è Elliot Ness, il leader degli Intoccabili. Film, ricordiamo, perché è un modo anche per fare un po' di storia del cinema. È film degli anni Ottanta, immagino, che richiama il periodo del proibizionismo e la guerra contro Al Capone. Al Capone, lui fu... Sì. Certo. Il Ness fu proprio messo lì, è quasi un commissario che fu messo lì proprio per quello. Esatto. Quindi, Kevin Costner, giusto? Kevin Costner, Andy Garcia, giovanissimo che recitava, e Sean Connery che faceva il poliziotto anche lui. Pure lui, sì. Sì, sì. E lui era il Robert De Niro che faceva il Capone. Sì, esatto, bravissimo. La famosa battuta, sei tutto chiacchiere distintivo. Il Ness è un bellissimo personaggio, sì. E poi perché è riprensibile. incredibile, perché lui rispetta la legge, perché dice ai poliziotti dovete essere puri, dovete dare l'esempio, e alla fine dice, c'è la famosa battuta finale, quando il giornalista gli chiede adesso il proibizionismo sarà abolito, e cosa farà lei, Elliot Ness, lui risponde ci berro su, cioè nel senso non è più una legge, è stata abolita, posso allora fare quello che la legge è vero, è vero, c'è anche quel cambio di passo lì alla fine del film, l'unica cosa che manca è una maschera per visualizzarlo Elliot Ness, però insomma è bello, non abbiamo, secondo me non abbiamo bisogno di supereroi in questo senso, non c'è bisogno di supereroi, ci sono bisogno di persone normali che siano assolutamente irreprensibili e rispettino la legge. Forse non super, però Elliot Ness sicuramente un eroe, un po' lo è ci stato. Starebbe, sì dai, ci starebbe, sarebbe, è un'idea. Grazie, grazie Alessandro, grazie mille, buona giornata. 800 24 00 24, vi aspettiamo ancora con le vostre chiamate e i vostri candidati cinematografici per le prossime elezioni comunali in Italia. Ancora qualcosa da dichiarare prima di andare in pausa? No, andiamo in pausa allora. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltato è OK dei Colors, questo è Si può fare, noi come sapete cerchiamo sempre un Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli appassionati di musica e riconoscete in una canzone il concetto di Si può fare, segnalateci questa canzone e noi la mandiamo in onda. Questa canzone ci è stata segnalata da Piero per un sabato OK, quindi abbiamo anche un pubblico giovane. Era evidentemente perché questo, sono okay. I The Colors, sì. Esattamente, lo potete fare segnalandocelo sui nostri account di Facebook, Si può fare trattino Radio 24, oppure di Twitter chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Abbiamo ancora una ascoltatrice che ci chiama Chiara da Milano. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva allora, intervenire? Archimede pitagorico per sindaco di Roma, perché secondo me dovrebbe avere delle idee brillanti e ingegnali. Ah, quindi che vai da giro con la lampadina in mano? Esatto, Roma ne avrebbe proprio bisogno. Ne avremmo bisogno tutti, sì. È molto bello poi anche semplicemente sentire il nome di Archimede pitagorico. Archimede pitagorico. Però mi viene il sospetto che a Roma più che idee ci voglia un uomo con la corazza che vada lì in mezzo a quella giungla. No, no, perché Spartacus, Spartacus che Archimede, però ci sta anche Archimede, Chiara. Io anch'io propendo per le idee, propendo per film, Archimede. C'è il film, cos'è il film di Topolino? O è più un personaggio dei fumetti? È un personaggio di Topolino, sì, fumetto. No, no, sì, fumetto, è straordinario. Sì, sì. No, ci chiedevamo se c'era proprio il film. Era Alessio, non so, Alessio versione notaio questa, non era credo per dire. Ci saranno i film di Walt Disney. Ma lei è candidata comunque è candidata comunque, sia gioco. Che ci sia il film, sia che non ci sia. Al grazie, gioco. Chiara. Grazie mille. E continuate a chiamare per proporre il vostro candidato cinematografico per le prossime elezioni in Italia. Vai. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e caldo, beatamente. Voglio vivere e godere. Ah, quant'era che non sentivamo questa musica, eh? Che bella, che è il preludio per le nostre storie. Voglio vivere così. Molto bella. Persone che a un certo punto della loro vita hanno deciso basta, mollo tutto, me ne vado, voglio vivere così. Persone per esempio come Silvia Canevara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ex giornalista, quindi una collega anche, che esatto. A un certo punto ha mollato tutto per dare vita al progetto Pecorelle. Di che si tratta? Noi lo sappiamo, ma è bellissimo, adesso. È un'idea un po' pazza che mi molto è venuta pazza. Pazza, ma di successo, vedrai. Sì. Che mi è venuta quando ho iniziato ad avere il desiderio di lavorare con le mani e smetterla di tradurre le cose in parole, ma in fatti. E così ho preso 19 pecore nane. Di Wesan e le uso per mantenere gli spazi verdi di privati e aziende al posto dei toserba meccanici. Quindi 19 esatto. Pecore toserba. Ma l'idea è incredibile, te l'abbiamo lasciata raccontare perché volevamo proprio sentirla. Letta è di una bellezza. Tra l'altro, scusa, le pecore Wesan che specie è? Da dove vengono? Wesan è un'isola della Bretagna che sta proprio all'estremità occidentale della Bretagna ed è famosa proprio perché è piena di pecore in ogni stagione dell'anno. Ma cosa, delle mandibole particolarmente sviluppate? No, perché lì ci sono solo prati perché c'è un vento incredibile sempre e quindi non cresce un albero e loro le usavano in realtà. Adesso questa forma di allevamento si è molto ridotta. Un tempo c'erano migliaia di pecore su un'isola che sarà grande come Cinisello Balsamo, credo. Che paragone, mamma mia. E loro hanno selezionato questa razza che è la più piccola razza ovina al mondo. Sono pecore grandi come cani di taglia media. E come il vantaggio è che, che si infilano in tutti gli anfratti? Perché sono così? Sono particolarmente adatte al pascolamento perché essendo molto leggere non rovinano i prati. Rovinano i prati, anche la bocca è piccolina e quindi fa molti meno danni rispetto a una pecora di grande mole che viene usata per esempio per la carne o per il latte, quelle che vediamo normalmente in giro nei campi. E poi sono più comode anche per essere trasportate se sono nane, giusto? E come? Sì, sono molto più amichevoli, sono molto docili, si possono accarezzare. Tra l'altro sono uno studio recente ha rivelato che le pecore sono molto fisionomiste, quindi un po' si crea anche un rapporto con tra il pastore o il pastore adottivo nel mio caso e le pecore. Cioè, riconoscono le persone le pecore. Riconoscono le persone molto più di quanto le persone riconoscano loro. Questo è sicuro. Ah sì, perché sono indistinguibili. Ma come funziona il servizio? Nel senso che uno ha un pezzo di terra, ha un praticello e dice io non voglio usare tosa erba, chiama te e che cosa fa? Esatto, il praticello deve essere di una superficie minima di 3000 metri quadrati perché non può essere un balcone. No, deve essere di una certa estensione perché le pecore non possono stare da sole per stare bene, devono stare almeno in due o tre. Quindi ci vuole una superficie adatta a contenerle. Noi arriviamo con il nostro van, con le pecore, noi siamo un gregge vagante, quindi siamo registrati così, montiamo le recinzioni, proteggiamo eventuali piante che non devono essere mangiate. Esatto, insomma predisponiamo il ricovero, ci occupiamo di tutti gli aspetti sanitari, veniamo ogni tanto a fare una visita di controllo per vedere se tutto cosa? Va bene. Dura il periodo ideale sarebbero tutti gli 8 mesi in cui cresce l'erba, quindi da marzo a ottobre più o meno. Anche ma dura tantissimo questo tu pensavi oggi è sabato devo tagliare il prato, chiamo due pecore in tre giorni. No, non possiamo fare così perché per noi naturalmente l'animale viene al primo posto e per cui gli spostamenti troppo frequenti alle pecore soprattutto su mezzo non fanno poi bene. Poi bisogna lasciargli il tempo immagino di mangiare l'erba che vogliono, esatto. Quindi piano piano infatti perché lo scopo al di là poi della qualità del lavoro delle pecore è anche un po' per mettere un piccolo seme di lentezza in questa società nelle nostre così vite. Però c'è un altro vantaggio, no? Che è quello bisogna dirlo, insomma le pecore fanno la cacca e concimano anche, no? concimano il terreno. Infatti è una cosa che così dà forza anche al progetto, al di là dell'apparente follia, che sì. Per esempio, secondo un recente studio dell'estate scorsa, che è stato presentato poi a Cancun a marzo all'Assemblea delle Nazioni Unite, è stato studiato che la pastorizia, a differenza dell'allevamento intensivo, è un valido aiuto contro la desertificazione dei suoli, perché apporta carbonio al terreno. Quindi siete, siete in linea con la conferenza sul clima di COP21, insomma, di Parigi. Assolutamente, pensa. È una forma di manutenzione del verde ecosostenibile, tant'è che la Francia è un faro in Europa dal punto di vista di questa pratica. Da loro si utilizza anche a livello pubblico, per esempio. Sì. Beh, sarebbe una cosa sicuramente da incentivare, ma la cosa che mi chiedo, la domanda sì. è doverosa: riesci a sostenerti dal punto di vista economico? Diciamo che io ho iniziato da pochissimo, perché un anno fa ho iniziato a gettare le basi del progetto e le prime pecore mi sono arrivate quest'estate ad agosto, per cui sono proprio... È troppo presto per chiedertelo, siamo all'inizio. È troppo presto per chiederlo, perché come... Quanto costa questo servizio ce lo puoi dire? Cioè, se io ho un certo. prato grande, un terreno di 3.000 metri quadri, il minimo... Guarda, è una cosa difficile da dire a priori, perché le variabili sono moltissime, dipende anche dalla qualità del pascolo, dipende... Mettiamo una cosa facile, insomma, un terreno non troppo complicato. È un modo comunque economico, oltre che ecologico, di tenere le aree verdi, sì. Per cui non rappresenta un costo superiore a quello che normalmente si sostiene. Ma fammi una cifra, lo so che può essere un po' imbarazzante, però, perché magari uno dice chissà cosa costa troppo e disincentivo qualcuno, però non credo, perché chi ha degli ulivi, delle terre che vuol mantenere, magari vuol fare una manutenzione straordinaria, può investire anche in, non so, i 500, i 1000, quanto può costare una cosa così? Ma diciamo, allora facciamo un esempio di un campo da calcio che sì. sono 5.000 metri quadrati, 8 mesi di pascolamento senza alberi interni da recintare, con il ricovero io direi che con un 1.000 euro all'anno ce la si cava. Beh, 1.000 euro è un investimento, certo. Se uno ha un terreno così che gli rende se uno ha uno stadio se uno ha uno stadio a San Siro, ma per il gioco funziona di tagliare l'erba per poi giocarci a calcio, tagliarla con le pecore? Ma forse non diciamo è stato che direi non è stato ancora sperimentato, mentre è stato sperimentato per esempio nei parchi, negli ospedali, sì. nelle carceri, sul campo da calcio no, ma perché no? Io direi che potrebbe assolutamente funzionare, anche se l'erba del campo da calcio non è proprio una dieta eccezionale. Immagino. Che è piena di schifezze. Sì. Sì, e poi è di una qualità unica, no? Invece se i campi, i prati hanno più varietà, più varietà. Noi ci teniamo anche alla salute delle pecorelle. Grazie mille Silvia, grazie mille, ci dobbiamo salutare, abbiamo il traffico. Ciao, grazie. In bocca al lupo. Questo progetto è incredibile, originale, si chiama Pecorelle, c'è anche un sito www.pecorelle.it, la pagina Facebook, quindi se siete incuriositi o se pensate che vi possa servire, interessare un servizio del genere, fatevi avanti, assolutamente. Bisogna premiare l'originalità e anche chi si mette a rischiare in proprio qualche cosa, come ha fatto Silvia. 800 24 00 24, cerchiamo un candidato cinematografico per le prossime elezioni. Ci sentiamo tra un attimo. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E diamo il benvenuto anche a Giorgio, che chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Ricardo, il candidato perfetto, è il protagonista di un vecchio film degli anni 40, credo. Sì. O inizio 50. Il protagonista era Gary Cooper e il titolo era John Doe. Ma il titolo del film o del protagonista? No, il titolo del film. Il titolo del film è un film famosissimo. Sì. Certo, John Doe era una sorta di barbone, un disperato che ad un gruppo di industriali decise di farlo diventare presidente, inventando anche il nome, e da il barbone marginato della società divenne presidente, perché loro concentrarono tutta la loro potenza mediatica e finanziaria su questo personaggio sconosciuto, col fatto che dovesse ovviamente ubbidire ai loro ordini poi. Quindi è il perfetto candidato, è meraviglioso, anche perché grosso modo oggi è così. E poi tra l'altro il nome è proprio perfetto, perché John Doe è il nome che in America viene dato alle persone di cui non si sa come si chiamano sostanzialmente. Quindi Gennaro. Quindi lo chiamarono così, ma divenne presidente degli Stati Uniti. Quindi in realtà questo vuol dire che il candidato ideale è quello voluto da un gruppo di poteri, i cosiddetti poteri forti. Ma non è che nel film, Giorgio, alla fine poi questo John Doe ovvio che fa quello che gli pare a lui? È sempre lieto, certo. Esatto, perché sa, la commedia americana vuole lieto fine. Nonostante per quello è il candidato ideale, perché uno che poi alla fine ha preso il potere in realtà si muove a favore del popolo e non a favore dei poteri occulti, e questo crea grossi problemi. Certo, è un po' tipo Oltre Giardino. Sarebbe il candidato ideale, un po' come Bisio quando è diventato presidente della Repubblica nel film di qualche anno fa. Certo. Bene, benissimo, Giorgio, grazie. Vabbè, insomma, adesso dobbiamo scegliere di qui alla fine della puntata, cioè tra un quarto d'ora circa, anche meno, diremo chi ci ha dato la risposta più originale, più interessante. Io un'idea ce l'ho, però aspettiamo ancora qualche minuto, facciamo elaborare il cervellone della redazione di Si può fare per vedere chi si porta a casa i biglietti e il catalogo della mostra di Gauguin al MUDEC di Milano. Queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere. Allora, torniamo a parlare di una iniziativa che anche Radio 24 sostiene, il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Abbiamo parlato anche domenica scorsa, ritroviamo Filippo Cellini. Ciao, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, insomma, una bella iniziativa, anche perché il Gran Premio Internazionale quest'anno poi mette a disposizione anche, insomma, non è facile entrare un po' nel mondo del doppiaggio, no? E questa volta c'è una borsa di studio, vero? Sì, in realtà la borsa di studio non consente direttamente di diventare un doppiatore. Beh, certo. Ma consente, sarebbe troppo facile. Sarebbe troppo facile con una borsa di studio. Però consente di qualcosa, secondo me, di anche più importante, cioè consente di studiare il doppiaggio, consente di sviluppare una tesi di laurea pagata attraverso questa borsa di studio proprio sul doppiaggio, perché non tutti sanno che il doppiaggio in realtà è un'operazione che non riguarda semplicemente la voce, ma riguarda prima di tutto la traduzione. Certo. Esatto. Perché il doppiatore deve anche fare la traduzione, la scrive lui? Non lui, il direttore del doppiaggio. No, non il doppiatore direttamente, c'è un ruolo specifico che è uno dei ruoli più importanti nel mondo del doppiaggio, che è una filiera, esattamente come tutte le altre filiere produttive, prevede sia una fase di scelta di voci ma anche una fase di adattamento e traduzione. E più che traduzione, il termine esatto e la parte più interessante è proprio l'adattamento. Cioè, noi spesso abbiamo a che fare con dei film che arrivano da tutte le parti del mondo e dobbiamo renderli in italiano, e per poterli rendere in italiano e per poter lasciare la stessa efficacia a una battuta comica piuttosto che a uno slang, noi dobbiamo fare in modo che in italiano abbiano lo stesso valore. Quindi il lavoro di adattamento, che è un lavoro specifico, un lavoro complessissimo. Il titolo della vostra trasmissione Si può fare fa riferimento ad un film, Frankenstein Junior, esatto, ma dall'esempio nel quale è ottimo. L'adattamento è stato forse una delle opere più geniali del cinema e del doppiaggio italiano. È verissimo, chissà com'era in lingua originale. Si dice anche che ci sono delle parti di quel film che sono più belle doppiate in italiano piuttosto che in originale. Ma assolutamente, ci sono delle battute, Lupulo là, Castello, esatto, Rodì, che è stato realtà proprio salvato, è incredibile. Sì. Ci sono appassionato. Quindi il dottor Maldesi, che è un grandissimo adattatore, è riuscito a fare un'operazione incredibile, perché oltre alla battuta, quindi al senso della battuta, bisogna stare attenti anche al sync, cioè il doppiatore poi deve dire delle parole che abbiano la stessa lunghezza, lo stesso timbro, se vogliamo, del labiale dell'attore. È un mondo molto affascinante, è inutile dirlo. Infatti, io penso che chiunque è attratto da questa. Chi ci sarà? Possiamo fare qualche nome, non so. Anche innanzitutto diciamo che il premio il 17 dicembre, sì, all'Auditorium del Massimo di Roma, alle ore 21, parteciperanno al premio tutti i più grandi doppiatori italiani, come sempre, come da tradizione per questo premio. In più, negli ultimi anni il premio ha assunto una valenza, un'importanza anche a livello istituzionale, partecipano comunque tutti gli interlocutori istituzionali del mondo del cinema e delle edizioni, quindi dal Ministero dei Beni Culturali, l'IMAIE, l'ANICA, la SIAE hanno partecipato. E partecipano ovviamente tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, perché in un certo qual modo, per quanto sia un'arte in ombra quella del doppiaggio, sì, è amatissima. Mi fai dire anche una cosa però per i nostri ascoltatori, che si può partecipare a questa serata, c'è una possibilità, la mette a disposizione proprio Radio 24, grazie naturalmente anche al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Si tratta di questo: ascoltare Voice Anatomy ogni domenica alle 14.30, il programma con Pino Insegno naturalmente, qui su Radio 24, lasciare il provino alla voice box al numero 800 28 12 12 e fino al 14 dicembre si può partecipare. Insomma, non c'è ancora moltissimo tempo a disposizione, ma si può partecipare perché i provini più belli sono selezionati e insomma, si potrà partecipare a questa serata del 17. Assolutamente sì, sarà una serata splendida, parteciperanno tutti e mi auguro insomma che si potrà seguire anche attraverso, anzi sicuramente si potrà seguire anche attraverso il vostro aiuto di Radio 24. Volevo chiederti una cosa molto rapida, ho visto che fra i sostenitori c'è anche il nuovo IMAIE, lo spiego per gli ascoltatori, l'IMAIE è l'associazione che ridistribuisce i diritti d'autore anche per gli attori, nel senso che tipo l'attore principale di un film, se il film poi va in televisione, prende una piccolissima quota di soldi. Mi chiedevo, anche se è una domanda un po' tecnica, anche il doppiatore prende dei soldi dall'IMAIE, una piccolissima quota di soldi nel caso che un film doppiato da lui vada in onda in televisione? Guarda, è un tema estremamente delicato questo, molto delicato, perché oltretutto ci sono dei cambiamenti in questo momento sulla normativa o sull'assetto dei diritti, però diciamo che tendenzialmente sì, dovrebbe essere così. Ottimo. Però ripeto, un po' come sta succedendo anche per le nuove piattaforme, per la SIAE, il tema del diritto d'autore in questo senso, soprattutto per l'adattamento, è un tema molto molto delicato sul quale bisogna discutere, e sarà un'occasione il Gran Premio del Doppiaggio per poter avere questo tipo di argomento. Perfetto. Ottimo. Grazie, sogno di fare il doppiatore, per questo che purtroppo non ho l'eremoscia, quindi è un problema. Poi tu ormai hai una voce caratterizzata, sei Carlo Gabardini, come fai ad andare a doppiare qualcuno con questa voce così riconoscibile? No, sto scherzando, magari, perché no, è possibile, ci sono doppiatori che hanno una grande identità anche come sì, attori, sì, è vero, e adesso è vero. Pannofino per esempio ha fatto il percorso, però vanno nell'altro senso, diciamo, prima senso. Doppiatori e poi attori. Bene, salutiamo tutti e diciamo anche che oggi la telefonata più divertente, più originale, più interessante è quella di Alessandro da Milano, che ha proposto Elliot Ness degli Intoccabili come candidato cinematografico sindaco alle prossime elezioni italiane. Bravo, catalogo e biglietti della mostra Gauguin al MUDEC di Milano. Noi ci sentiamo domani. Sì, ciao, signori, ciao a tutti. Ricordiamo anche che oggi è l'anniversario di Piazza Fontana. Grazie, ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Un ringraziamento a Claudia Schiattone, Carmelo Ricella, regia Andrea Piana, autore insieme a noi del programma. Ciao.